Eccoci qua, Germania e USA, segnali di frenata e l'apertura di oggi, di questo venerdì 24 agosto del Sole 24 Ore, è ultimo avviso da Merkel e Hollande. Abbiamo seguito nel corso della settimana le interviste diffuse ampiamente dal premier greco Samaras sui quotidiani tedeschi, premier greco che di fatto da un lato rassicurava sul fatto che i debiti sarebbero stati pagati, ma che chiedeva tempo. Qui la risposta, ultimo avviso da Merkel e Hollande, l'incontro è quello di ieri, appunto, della cancelliera tedesca e del presidente francese, che dicono la Grecia resti nell'euro ma faccia le riforme. La locomotiva tedesca intanto rallenta, l'indice PMI dei servizi ha registrato ad agosto una contrazione inconsueta da 50-48 punti rispetto ad attese di stabilità. L'indice manifatturiero tedesco segna la sesta contrazione mensile consecutiva. Segnali negativi purtroppo arrivano anche dagli Stati Uniti. Le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono lievitate di 4.000 unità a 372.000. Un'altra misura, un altro dato, questo in particolare, che accende preoccupazione, sottolinea la preoccupazione, in particolare, poi avremo modo di vederlo anche sul fronte interno, sul fronte elettorale. Ormai siamo con l'avvicinarsi del mese di settembre, veramente nella fase finale della sfida per la Casa Bianca. Insomma, dati quelli tedeschi e americani che gelano le borse. Milano la peggiore in Europa, ha perso l'1,37%, mentre lo spread BTP Bund è tornato a salire a quota 433, ma come dicevamo, il titolo è legato all'incontro, l'incontro tra il cancelliere tedesco Merkel e il presidente Hollande. Vogliamo dunque che la Grecia resti nell'eurozona, ma Atene deve compiere gli sforzi necessari. Così ha detto François Hollande, il presidente francese, che sembra essersi un po' assunto il ruolo di mediatore tra la posizione tedesca e le richieste greche. Se Berlino si guarda dentro, l'editoriale a firma di Carlo Bastasino oggi appunto sul Sole, chi è in contatto in questi giorni con i vertici del governo tedesco non ha la sensazione che sia in corso uno scontro tra falchi e colombe, come viene comunemente descritto dai giornali internazionali, scrive Bastasini, anzi colpito dall'assenza di pathos nei confronti dell'eurocrisi rispetto a solo pochi mesi fa, e non è detto che questo clima sia più costruttivo. Insomma, l'assenza di pathos, sottolinea Bastasini, perché dice ministri e negoziatori di Berlino trasmettono la convinzione che l'ipotesi dell'abbandono o di una rottura della moneta unica sia uscita dagli scenari plausibili. Secondo alcuni, il rischio di break-up dell'euro si è del tutto dissolto, benché la crisi sia tutt'altro che terminata. Dunque l'idea dell'uscita esce dalla visuale, secondo Bastasin. Ammettono, per esempio, il Ministero delle Finanze che passeranno anni prima che le condizioni finanziarie tornino serene all'interno dell'area euro. Tuttavia Berlino è certa che le misure che sono state adottate dai governi, e soprattutto quelle che si attende vengano predisposte dalla Banca Centrale Europea, accompagneranno le economie dell'area euro fuori dalla crisi. Ma quella tarassia non deve ingannare, fa parte della soluzione, ma è al tempo stesso parte del problema. L'assenza di allarme è infatti utile a concentrarsi sul grande progetto delle soluzioni, il progetto decennale di trasformazione dell'Unione Europea, che la cancelliera Angela Merkel dal giugno 2010 in poi ha fatto capire di considerare più importante di ogni soluzione di breve termine. Questo un passaggio, dicevo, dell'editoriale a firma di Carlo Bastasin questa mattina sul Sole 24 Ore. Vediamo altri titoli. Naturalmente oggi è anche riapertura, Consiglio dei Ministri e piano crescita. Dunque oggi in Consiglio il piano d'autunno con semplificazioni e cessioni, la crescita, si parte da digitale e startup. Fornero al meeting di Rimini, l'avete sentito ampiamente nei giornali radio, cuneo fiscale troppo pesante, in arrivo sgravi per giovani e imprese. Ecco qua, ancora tra i temi appunto ripresi dalla prima pagina, vi anticipo e poi ci torneremo senz'altro, i roghi che sono davvero un classico di questo nostro mese d'agosto, un richiamo su un approfondimento sull'incendio che ingrassa Cosa Nostra. Spegnere i roghi costa 500 milioni l'anno e appunto ci torneremo con gli approfondimenti. Meno tasse in busta paga è proprio l'apertura invece per il Corriere della Sera, i dati sull'occupazione negli Stati Uniti che deprimono le borse, mentre lo spread torna a salire. Ecco, questo, anche in questo caso dunque il tema è l'apertura, mentre scegliendo lo stesso di fatto identico titolo per Repubblica, meno tasse sul lavoro, c'è ampio spazio però appunto su Repubblica per una grande fotografia dedicata all'incontro Merkel-Hollande e all'anticipazione di un'intervista che troviamo poi nelle pagine interne al segretario del PD Luigi Bersano, che dice basta con i tecnici, nel 2013 tocca a noi governare. Dunque il dibattito su elezioni anticipate, legge elettorale e ritorno della politica oggi segna un tassello che poi andremo ad approfondire con l'intervista che viene anticipata sulla prima di Repubblica del segretario PD Luigi Bersani. Fornero, meno tasse sul lavoro per il Messaggero, ma anche grande spazio alla bufera, che è cosiddetta bufera su Conte, che accusa giudici tifosi. Antonio Conte meno sfortunato, scrive Vincenzo Cerami sul Messaggero, di altri tesserati finiti nella rete della giustizia sportiva, e questo perché ha avuto solo 10 mesi di stop. Ieri in una conferenza stampa accompagnato dai suoi avvocati, da un legale della Juventus, ha sparato cannonate contro la Corte di Giustizia Federale. Giù Sansone con tutti i filistei. E a questo proposito, inevitabilmente la conferenza stampa di Conte, che viene definita Furia Conte, è l'apertura in prima pagina della Gazzetta dello Sport, dove c'è appunto Valanga Conte, dice un'infamia, uno che si è venduto le partite e ritenuto più credibile di me, è un attacco personale. Il tecnico della Juve senza freni, dice non ho più fiducia nella giustizia sportiva, il patteggiamento, prosegue, è un ricatto. Ma c'è anche spazio per la reazione del presidente del CONI, che dice giù le mani dalla giustizia sportiva. Il presidente del CONI Gianni Petrucci dice ormai sembra che il responsabile sia Palazzi e non chi ha commesso questi illeciti. Insomma, giù le mani dalla giustizia sportiva. Gianni Petrucci, presidente del CONI, interviene dopo la conferenza stampa di Conti. Sembra appunto che il colpevole sia Palazzi e non chi ha commesso illeciti, spiega l'ANSA. Non nomina la Juventus, ma non c'è bisogno di interprete per capire a chi siano dirette le sue parole. In queste settimane abbiamo assistito a esibizioni muscolari che mostrano il lato peggiore di uno sport che non merita mortificazioni. E continua, occorre rispettare i giudici, gli arbitri e quanti sono preposti al rispetto delle regole. Altrimenti sarà solo il caos e questo il CONI non può consentirlo. Basta con questi attacchi ai giudici e alla giustizia sportiva. L'intervento del presidente del CONI denuncia la preoccupazione istituzionale per l'intensità dello scontro. Pontiere per scelta, il presidente del CONI aveva tentato di tenersi al di fuori della contesa agendo da mediatore tra Andrea Agnelli e Giancarlo Abete, presidente della FIGC. A maggio Petrucci aveva propiziato un incontro tra i due litiganti e sulla questione della terza stella aveva evitato di consumare rotture, aprendo anche alla possibilità che la terza stella venisse inserita nello stemma della Juventus. Ma dal 2 agosto, dopo il rifiuto dell'ipotesi di patteggiamento presentata da Palazzi, il duello tra Juventus e disciplinare si è incendiato. Il primo richiamo di Petrucci è piovuto da Londra, 3 agosto, appunto in tema e in tempi olimpici, nessun rimando esplicito ai bianconeri, ma messaggio altrettanto chiaro. I toni devono essere più sereni, non voglio dire altro, perché me lo sono ripromesso. Oggi dunque una posizione più esplicita, basta accuse a chi fa rispettare le regole. Questa dopo la lunga la lunga conferenza stampa, poi di fatto un fiume di parole, del ex allenatore della Juventus Conte. Sulla pagina dello Sport c'è dunque spazio anche per il calcio giocato, bella Inter, c'è Pereira, Europa League, cambiasse Palacio 2-0 al Vaslui. Questo per quanto riguarda la partita giocata ieri sera. Vediamo ancora qualche prima pagina rapidamente. È cemento amato per il Manifesto. Il record del prezzo della benzina si aggiunge a quello degli incentivi ai costruttori. Il governo Monti si appresta a togliere le tasse sulle grandi opere quando un'area estesa come il Friuli è già sparita. Due aeroporti inutili da 4 miliardi di euro, invece il titolo del Fatto Quotidiano che dice ironicamente grandi opere mai più senza. Le ultime di Passera per uscire dalla crisi, i costosissimi scali di Viterbo e di Grazzanise, provincia di Caserta, per rimpiazzare Ciampino e Capo di Chino. Crescita, Monti batta un colpo per l'Unità. Mentre per il giornale è un titolo dedicato a Tobias Piller, il tedesco che ci fa la predica, il volto tedesco nelle tribune televisive. C'è un'intera pagina dedicata, direi, contro di lui. E ancora sotto un occhiello maestrini sinistri, l'esperto fiscale di Ballarone e guai per fondi neri. Il commercialista Barbone spiegava i giochini degli evasori nella trasmissione TV di Floris, oggi è indagato nell'inchiesta su Banca Intesa. E poi una spalla dedicata alla legge elettorale, c'è accordo, anzi no, sul voto subito, ora riemerge la tensione tra PDL e PD. 7:30, tempo di sentire insieme gli aggiornamenti sul meteo, poi proseguiamo. In primo piano. 7:34 minuti, ancora un saluto, un buongiorno a chi si fosse messo in collegamento con noi in questi minuti. Avete sentito dunque gli aggiornamenti dal meteo, e proprio la questione meteo sta agitando ormai da qualche giorno, in particolare l'area Ligure, una preoccupazione che naturalmente si lega a quanto accaduto in città ottobre-novembre dello scorso anno. Si parla oggi sul Secolo XIX di bomba d'acqua domenica su Genova e di guerra meteo, bomba d'acqua in arrivo, anzi no. Sito specializzato annuncia maxi rovesci per domenica mattina, l'ARPAL smentisce temporali moderati. Ecco, bomba d'acqua, un termine che usa proprio appunto in maniera esplicita questo sito, il sito meteo.it, e termine che riporta alla mente dei genovesi a Via Ferreggiano e dintorni, e specifica, questo racconta Giuliano Gnecco nell'articolo che appunto appare oggi sul Secolo XIX, che il periodo di rischio è domenica tra le 5 e le 8 di mattina. Purtroppo non è possibile allo stato attuale essere più precisi, spiega l'amministratore delegato del sito specializzato. È certo che un temporale dalla Lombardia e dal Pavese si porterà sull'Alessandrino e punterà a Genova tra le 5 e le 8 del mattino, con apporti di pioggia dai 20 ai 50 mm che potrebbero concentrarsi anche in pochi minuti. Insomma, non c'è assolutamente, dice, una zona più a rischio delle altre. Matteo Corazza, invece previsore dell'ARPAL, preferisce non commentare, ma rimanda al bollettino che prevede sì piogge da sabato e magari anche temporale domenica, però comunque deboli o moderate. Renata Briano, assessore regionale alla protezione civile, frena, dice non bisogna fare allarmismo. Al momento è difficile localizzare le bombe d'acqua. Il quadro si chiarirà nei prossimi giorni. Ieri abbiamo avuto Gianni Crivello, assessore alla protezione civile, ma per il comune che si occupa dei lavori, tra l'altro appunto nelle zone colpite dall'alluvione dello scorso anno, che avete forse sentito ieri mattina, ha detto i lavori stanno andando avanti, il problema è presente, e ha ricordato come lui e la sua squadra di lavoro in questo periodo non pensino altro che alla pulizia di torrenti e interventi appunto similare. Sempre dal Secolo XIX ci sposta invece nel nord-est, una storia di quelle davvero che sembrano pesce d'aprile, ma siamo lontani. Ero meno, niente trapianto di cuore. Padova, intervento fermato con una motivazione shock. Niente cuore per un romeno. L'ospedale di Padova ha rifiutato un trapianto a un marittimo romeno colpito da infarto su una nave italiana dove era imbarcato e ricoverato a Venezia. L'uomo ha dovuto essere trasportato a Udine, dove è stato eseguito l'intervento che gli ha salvato la vita. Sulla vicenda esplode in Veneto una durissima polemica, con il PD all'attacco per quella che considera una discriminazione razziale. Il direttore dell'azienda ospedaliera, Giampiero Rupolo, smentisce. L'assessore regionale alla sanità, Luca Coletto, vuole vederci chiaro e sull'episodio ha chiesto una relazione. La tesi dell'ospedale è che le condizioni del paziente non erano particolarmente gravi, che l'uomo avrebbe potuto essere trasportato nel suo paese, dunque in Romania, per le cure come previsto dai protocolli. Un cardiochirurgo chiamato a pronunciarsi sul caso avrebbe però di molto semplificato la valutazione, riassumendola così: i cuori italiani vanno agli italiani. Ecco il caso dunque accaduto e risolto di fatto ieri. L'uomo è stato salvato e operato a Udine. Governo piano d'autunno per La Stampa, che affronta nel fondo di prima pagina il dibattito sul sistema, sulla riforma elettorale che, come avete sentito appunto in un'altalena da qualche giorno, circola sempre più convinta l'idea di un accordo. Stamattina alcune testate sono più fredde su questo punto. Intanto Fabio Martini scrive sulla Stampa: se si vota non vince nessuno. I leader politici già lo sanno e gli italiani lo sapranno presto. Con la riforma elettorale in gestazione, ormai vicina al traguardo, tutto è stato calibrato per garantire due obiettivi minimali. Comunque vadano le elezioni, nessuno dei tre partiti di maggioranza avrà molto da perdere in termini di rappresentanza, mentre al più forte di loro sarà garantito un premio, ma non è affatto detto che l'additivo sia sufficiente per conquistare la maggioranza dei seggi in Parlamento. Nella notte delle elezioni agli italiani potrebbe essere negata l'istantanea, ormai rituale in tutte le democrazie del mondo, la consacrazione del leader vittorioso. Dunque la chiarezza di chi e di quale idea, di quale progetto politico risulti quello vincente. E a proposito di politica, dunque vi ho segnalato dalle pagine di Repubblica l'intervista al leader del PD Bersani, il quale dice: basta coi tecnici, tocca a noi governare. Molti i temi affrontati, evidentemente, anzi a tutto campo. Ve ne segnalo qualcuno. Il nodo vero, scrive Giannini, chiede Giannini, vice direttore di Repubblica, è la pressione fiscale. Lei pensa che Monti dovrebbe cominciare a rimodulare le aliquote IRPEF? Risposta: è un obiettivo per il futuro, ma per ora non possiamo permettercelo. Senta, dice, io non riesco a raccontare favole, dobbiamo scongiurare gli aumenti dell'IVA, questo sì, ed è possibile farlo aumentando il recupero dell'evasione fiscale e concludendo l'accordo con la Svizzera sulla tassazione dei capitali. E la patrimoniale? Noi proponemmo un'imposta sui grandi patrimoni immobiliari per alleggerire l'IMU, non si fece allora, per me va fatta adesso. Tornano in ballo dunque elezioni anticipate a novembre? Non c'è alcun nesso, dice, risponde Bersani, tra voto anticipato e legge elettorale. Ma l'intesa col PDL sulle modifiche al Porcellum c'è oppure no? Oggi un accordo non c'è ancora, ma da parte nostra c'è la disponibilità a chiudere in fretta. E poi le alleanze, come di consueto un quadro, forse il quadro politicamente più complesso nella formazione, nell'avvicinamento a una fase elettorale. Dunque, Vendola, Casini, riuscirete a vincere e a governare mettendo insieme centristi e comunisti? Noi organizziamo un centro-sinistra aperto e un incontro a un incontro con le forze politiche sociali e moderate. Entro ottobre saranno pronti 10-15 punti di programma, non 281 pagine. Sarà poi il candidato premier a fare il resto. Dunque lei, se mi voteranno, sarò io. Sulla base di quel programma, il centro-sinistra proporrà un'alleanza di legislatura alle forze liberali e moderate. Dentro questo perimetro non ci sono solo Vendola e Casini, ma ad esempio anche i socialisti. Con Di Pietro invece è finita per sempre. Mi pare evidente che lui vuol star fuori. Il centro-sinistra deve far spesso i conti con forze agitate da questo istinto minoritario di autoesclusione della responsabilità. Io, da riformista, conclude Bersani, lavoro perché questa maledizione finisca. Il PD è pronto a governare e sono convinto che governerà. Questo per l'intervista che vi segnalo Repubblica, appunto su Repubblica di oggi, tema completamente diverso come spesso accade invece per Avvenire, che segue le vicende appunto dei cristiani nel mondo, vicende che sono spesso di oppressione in paesi appunto paesi come il Pakistan. Oggi in prima pagina i piccoli martiri, orribile delitto nel nord del paese, traumatizzata la ragazza fermata per blasfemia, ragazzo cristiano ucciso per gli organi, Rimsha resta in cella. Rimsha è appunto la ragazza accusata di avere danneggiato pezzi di Corano. Insomma, un tema, un filone decisamente di approccio internazionale, così come l'attesa della sentenza che può cambiare il mondo. High tech, sempre dalla prima di Avvenire, Apple e Samsung in attesa della decisione sui plagi. Allora, 7:43, abbiamo ancora il tempo per vedere alcuni spunti che ci tengono di fatto sulla scena internazionale. Tra le attese per oggi, un reportage che ci porta idealmente ad Oslo, dove Oslo, capitale della Norvegia, che oggi si ferma per la sentenza Breivik. L'estate scorsa uccise 77 persone, rischia al massimo 21 anni di carcere. E Pietro Veronese, inviato Repubblica ad Oslo, descrive come un uomo pronto a una accanita battaglia legale per non essere considerato pazzo. Attende questa mattina il suo verdetto. Nessuno dubita della sua colpevolezza e della pena che lo aspetta, ma è sulla ragione o sragione del suo orrendo crimine che la giustizia dei suoi simili si tormenta in queste ore. Lui intanto è lucido, freddo, si attiene ai suoi programmi, come quella mattina di 13 mesi fa, era il 22 luglio del 2011, in cui con un'autobomba prima e poi con armi a fuoco rapido uccise 77 persone, in massima parte erano dei ragazzi. L'assalto invece alla Casa Bianca comincia a emergere, come dire, il tema delle elezioni di novembre. Lunedì intanto a Tampa in Florida si apre la convention dei repubblicani che incorona Romney come candidato alla presidenza. Obama risulta ancora avanti nei sondaggi, ma teme la recessione, teme dati come quello dal quale siamo partiti questa mattina, difatti l'aumento della disoccupazione, teme dati che appunto lo indeboliscano internamente. Intanto ci scrive Federico Rampini da New York, da Repubblica, che i cinesi tornano e fanno shopping di aziende per 8 miliardi. Energia e tecnologia nel mirino. Obama adesso apre le porte. Più munifici che mai quando si tratta di mettere le mani su aziende americane in controtendenza mondiale in un anno depresso per il volume di fusione e acquisizione, si nota ancora di più il boom degli investimenti cinesi negli Stati Uniti. Tra le acquisizioni di quest'anno figura in primo piano un'operazione da 2,4 miliardi firmata Sinopec, l'altra la compagnia petrolifera di Stato, che ha preso il controllo di diverse filiali della Devon Energy. Per valore la supera solo un'altra acquisizione, quella compiuta dal gruppo Vanda, che ha rilevato l'intera catena di sale cinematografiche Multiplex, un affare da 2,6 miliardi. Quest'ultima è stata una notizia che ha colpito l'immaginazione perché ha ricordato parecchio un'altra invasione asiatica. Erano gli anni 80 quando tra le prede dell'economia giapponese in quel periodo ci fu anche Hollywood, la mecca del cinema americano. Viabilità e torniamo per l'ultima parte della rassegna stampa. In primo piano. Gli americani dunque hanno i loro problemi, il presidente degli Stati Uniti si occupa evidentemente della situazione economica con un occhio, anzi forse due, al processo, alle settimane che lo avvicinano al voto. Ecco, lunedì abbiamo detto la consacrazione di fatto a Tampa, quindi del suo avversario. Intanto, e chiudiamo davvero lo scenario internazionale, dagli esteri del Messaggero proseguono le manovre USA-Giappone che vengono definite prove di guerra. D'altra parte le manovre militari questo sono prove di guerra, e in questo caso nel Pacifico. Continua a salire la tensione con la Cina per l'arcipelago conteso, prove di sbarco, prove di guerra. Così la Cina ha giudicato le manovre congiunte tra Stati Uniti e Giappone nelle isole Marianne. 2000 marine e qualche decina di soldati giapponesi hanno finto uno sbarco sulle isole di Guam e di Tinian. Insomma, nomi, luoghi, memorie che sembrano davvero riportare alla mente, che riportano alla mente gli sbarchi della Seconda Guerra Mondiale. In quel tempo era il Giappone il nemico da colpire, da abbattere per gli Stati Uniti, e oggi Stati Uniti e Giappone operano e manovrano insieme, mentre la pressione del colosso cinese aumenta sulle riserve marine di gas a largo appunto delle isole contese. Bene, con questo lasciamo le pagine degli esteri, torniamo invece a quello che è da un lato il grande tema della crescita. Vi ho segnalato i titoli, voglio ora segnalarvi nelle pagine interne del Sole 24 Ore questa mattina. Intanto vi segnalo che proseguono i libri e i dialoghi sull'economia. Oggi un documento, un libro appunto a firma di Fabrizio Galimberti. Poi vi segnalo anche che nelle pagine interne, in quelle dedicate negli approfondimenti all'agenda per la crescita, una serie appunto di approfondimenti dettagliati sulla fase 2. Ecco, la fase 2 parte dalla digitalizzazione, è il titolo. Oggi i dossier sullo sviluppo in Consiglio dei Ministri e in primo piano il pacchetto Passera. Si è più volte detto che dalla fase, diciamo, del lavoro, il nuovo protagonista di queste giornate all'interno della compagine governativa dovesse essere il ministro Passera. I temi, i dossier sono quelli dell'innovazione, quindi in primo luogo la banda larga, 400 milioni di fondi riprogrammati, ma le imprese con le misure legate all'internalizzazione e al cuneo fiscale, le semplificazioni, ma anche le infrastrutture, il fisco, l'ambiente, i programmi per il sostegno della green economy devono avere ampio spazio, la nuova stretta legata alla spending review. E anche ci viene segnalato in questa pagina, che raccoglie evidentemente e sintetizza tutti questi grandi temi, il piano Grilli con le dismissioni da 15-20 miliardi al via in autunno. Ancora qualche segnalazione, abbiamo ancora qualche momento, abbiamo lasciato indietro un tema che soprattutto su alcune testate del Mezzogiorno del Centro Italia ha avuto una forte visibilità, quello del caso di Terracina. Sul giorno oggi, ucciso in spiaggia, terrore in spiaggia, ucciso il boss che baciò la figlia in televisione. Ma ancora la cronaca, spesso l'abbiamo parlato dei fiumi, in questo caso è il Sacro Piave che non mormora più, ora boccheggia tra siccità ed abbandono. E appunto il Quotidiano Nazionale racconta di un reportage sul fiume della patria, insomma il fiume anche di tanta retorica nazionale e storica, ridotta a un rivolo tra siccità ma anche abbandono. E a proposito di temi ambientali, vi avevo segnalato e anticipato quell'approfondimento oggi curato da Roberto Galullo sull'Italia che brucia e che è cosa loro, scrive nel titolo. Aumentano gli incendi, si rafforza l'azione delle cosche per lo spegnimento, sono 500 milioni annui. E tanto per dare un esempio chiaro di un caso di spalla di questa pagina, Galullo racconta di Longobucco, il paese dove a dar fuoco è la mafia dei boschi. Scrive anche: quest'anno la provincia di Cosenza è la più colpita dagli incendi in tutta Italia, è divorata dal fuoco. Il sindaco di Longobucco, Luigi Stasi, mentre i boschi del suo comune in gran parte del parco nazionale della Sila bruciavano, ha rotto il muro di omertà con una dichiarazione fragorosa: sono tutti incendi dolosi, non sono da attribuire ad allevatori, ha affermato Stasi, né ad altri. Non c'è speculazione edilizia. Sull'altopiano silano c'è un sistema, la mafia dei boschi. Se sia legata alla criminalità organizzata non lo so, questo lo devono stabilire gli inquirenti, ha detto il sindaco, ma è comunque un sistema consolidato che va avanti da anni. In fumo intanto 600 ettari di bosco, macchia e pineta. Insomma, questo è un approfondimento su un tema che ci ha accompagnato di fatto per tutta l'estate. In conclusione parliamo e parleremo tra poco di cultura e di musei. Il caso Brera, che ha appunto agitato l'estate anche della cultura milanese, sulle ipotesi di privatizzazione, di compartecipazione appunto al progetto della grande Brera, ma anche naturalmente, questo per il Corriere, infatti oggi un lungo articolo sui privati a Brera e la crescita del fronte del no, ma dicevo anche è tempo anche di cinema italiano. Repubblica ci racconta l'attesa di Kasia Smutinak, il ritorno di Kasia, ora so riconoscere la fortuna e la felicità. L'attrice polacca sarà infatti la madrina della mostra. Da madrina racconta, prepara un discorso breve, ma il terrore del palcoscenico. Ricordo una tragica conduzione con le Iene, una conduzione a tre con Ilari Blasi e Elisabetta Canalis, loro belle spigliate, io scordinata nel pallone, ho finto il mal di pancia per evitare gli stacchetti, ora so che non andrò mai a Sanremo, dice. E intanto il cinema italiano, che se vuole sopravvivere deve diventare più cattivo con il potere, è una citazione di una intervista che Sette realizza a Francesca Comencini, con un giorno speciale, è in concorso alla mostra. Insomma, il cinema, da qui ripartiremo proprio dalle 8:20, grandi film, grandi attori e protagonisti, ma anche tutta quella attività che riguarda la documentaristica, gli incontri, insomma una grande manifestazione culturale che coinvolge migliaia naturalmente di registi addetti ai lavori, coinvolge direttamente la cultura italiana. L'appuntamento che abbiamo intorno alle 8:20 con Carlo Mazzacurati, che ci racconterà come da Veneto scopre attraverso il suo lavoro anche una comunità che dalle parti della sua Padova si dà da fare da anni ormai per sostenere la crescita sanitaria nei paesi africani. Tutto questo però a partire circa dalle 8:20. Ora è tempo di passare la linea a Peter Bescapè, GR24. Più tardi.